mi guardi, tu mi guardi e non mi vedi, tu mi ascolti e non mi credi, e vai via, via da me, che ripenso ogni momento mentre qui canto nel vento questa storia di una rivolta iniziata per amore e finita nel dolore di un mattino senza te. Al mio processo voi non avevate accuse, voi non avevate prove sul mio dolore, che ora non sai e che oramai non vuoi. Gli orizzonti sono tanti, oltre il mio e oltre il tuo. La mia speranza va ben oltre questa stanza, oltre la mia diffidenza verso gli altri e oltre te.